Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il vappello di Gentiloni per lo stop al ricorso. Si apre il tavolo sul piano industriale al Ministero. In Catalogna vincono gli indipendentisti, che si dicono pronti ad un nuovo governo. Nuovi indagati per ribellione. L'accusatrice del sindaco alterò i messaggi. Archiviata l'indagine sul primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi. L'ONU condanna la decisione americana su Gerusalemme. Il Vaticano dice rispettare il valore universale della città. Migliaia in marcia a Napoli per il ragazzo accoltellato in strada. La mamma dice chissà parli. Fine settimana di Natale con campionato. Sabato sera il big match Juventus-Roma. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook di Radio 24, la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalle quali andiamo anche in diretta video, quindi se avete anche la curiosità di vederci potete farlo andando là. Dall'altra parte del vetro Andrea Roccabella in regia, Laura Faggin in assistenza e redazione. Iniziamo dunque. Iniziamo dalla questione dell'Ilva, dove per la quale questa mattina è arrivato un nuovo appello del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, rivolto al Sindaco di Taranto Melucci e a Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, affinché ritirino il ricorso che hanno presentato al TAR, che potrebbe bloccare gli investimenti, come già detto dal governo in più occasioni. Nel frattempo si apre il tavolo sul piano industriale. Domenico Palmiotti, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, la trattativa sull'Ilva tra sindacati e governo e Eminvestco continua e proprio oggi al MISE sono stati programmati gli incontri per gennaio, una fitta serie di appuntamenti che comincia dal 10. Sull'Ilva il governo vuole dare una stretta finale appunto tra gennaio e inizio di febbraio, preparandosi così al verdetto dell'antitrust europeo su tutta l'operazione di cessione atteso tra fine marzo e inizi di aprile. Serve la stretta, rileva il vice ministro Bellanova, per mettere al riparo un grande insediamento produttivo e migliaia di posti di lavoro, non arroganze e presunzioni, dice il vice ministro con un chiaro riferimento polemico. La trattativa sull'IVA continua perché questo è il tavolo principale, spiega ancora Bellanova. Per il vice ministro c'è il dovere di avere un confronto di merito sul piano industriale e ambientale, sulle condizioni di lavoro e sul numero di lavoratori che transiteranno nella nuova società. Da registrare infine l'appello del cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova. Tutti dovremmo essere interessati, rileva Bagnasco, perché con un clima di collaborazione fattiva la sfida dell'Ilva possa essere superata. È tutto a te. E grazie Domenico Palmiotti. E dall'acciaio passiamo all'alluminio e passiamo ad un'altra crisi aziendale che sembra vicina alla soluzione e forse addirittura risolta, ed è quella dell'Alcoa. Questa mattina il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda è andato a Porto Vesme per annunciare l'accordo fatto con un gruppo svizzero. Potrebbe dunque ripartire la fabbrica. Siamo in linea con Roberto Puddu, che è il segretario della FIOM per il Sulcis Iglesiente. Puddu, buongiorno. E insomma, sembra che ci siamo. Sembra che ci siamo grazie alla legge che ieri sera il Parlamento ha definito, l'energia elettrica con i prezzi adeguati alla competitività delle fabbriche, e oggi il ministro ci ha comunicato che la fabbrica passa in mano in Invitalia. È l'unica situazione di questo tipo in Italia, ma rispetto anche all'Ilva, che è una pagina, come dire, molto difficile come la nostra, qui da queste parti c'è una completa armonia, una completa collaborazione fra tutti gli enti dei vari livelli, da quello territoriale a quello del ministro del governo. Quante persone sono occupate nello stabilimento di Porto Vesme? Quante ne saranno occupate? Questa è la domanda da 100 milioni di dollari, perché a questo momento la fabbrica passa in mano a Invitalia, che con il gruppo industriale che ha deciso di rilevarla ha una, come dire, interlocuzione che noi avvieremo con il nuovo anno. L'11 di gennaio abbiamo la prima riunione per parlare di quel piano industriale. Quando si è fermata quella fabbrica aveva 907 lavoratori in produzione. Contiamo insomma di arrivare più o meno a quella misura, sapendo che qualche cosa si ridurrà, perché in quella fabbrica ci sono migliorie da fare e speriamo che siano corpose e consentano la ripartenza per tutti i lavoratori, per tutto il territorio. Da noi l'Alcoa vale come l'Ilva a Taranto e veramente vorremmo poter vedere l'uscita da questa crisi che noi abbiamo, come tutto il resto d'Italia, dal 2009, ma per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente, sì, ha una dimensione che è nota in tutto il paese. La ringrazio, grazie e in bocca al lupo anche per gli incontri che avete a partire da gennaio. Roberto Puddo, segretario della FIOM per il Sulcis Iglesiente, scusate, andiamo in Catalogna per il voto. Il nostro inviato Sergio Nava, ciao Sergio, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno da Barcellona. Il giorno dopo le elezioni è sfida a distanza tra Carles Puigdemont, presidente di nuovo rieletto e di nuovo in pectore catalano, e Mariano Rajoy. Puigdemont ha già parlato da Bruxelles a mezzogiorno, ha detto la ricetta del 155 ha dimostrato di non funzionare e ha proposto Puigdemont una riunione con Mariano Rajoy in Europa, non in Spagna, per evidenti ragioni, perché ricordiamo che Puigdemont rischia l'arresto non appena rimette piede qui. Una proposta sincera e in buona fede, ha detto Puigdemont, che ha proposto dialogo e politica. Abbiamo guadagnato il diritto di essere ascoltati, ha detto Puigdemont a Bruxelles. Non si può avanzare se non si accettano i risultati delle urne, ha aggiunto. E alla Commissione europea Puigdemont ha detto: non vi chiedo un cambio di posizione, ma chiedo che ascoltiate tutti. Lo stesso Puigdemont ha aperto a questo punto alla soluzione più logica, cioè un governo catalano a partire dal 2018 che unisca Junts per Catalunya e Esquerra Repubblicana, con un possibile patto con gli antisistema indipendentisti della CUP, avrebbero 70 seggi, quindi una comoda maggioranza assoluta. Questo dal punto di vista politico. Mariano Rajoy risponderà tra meno di un'ora alle 14 da Madrid e vedremo, sentiremo cosa dirà. Mentre sul fronte giudiziario, il 4 gennaio ci sarà un'udienza per decidere sulla libertà di Oriol Junqueras, che è stato il vicepresidente catalano deposto con l'articolo 155 del commissariamento, mentre oggi sempre il Tribunale Supremo ha ampliato l'indagine per ribellione ad altri esponenti di primo piano dei partiti indipendentisti, e questo chiaramente è un altro sviluppo da seguire. Io vi lascio con l'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Francesca Ferreres, che era una rappresentante del partito di Puigdemont, Junts per Catalunya, la stessa candidata alle elezioni. Abbiamo chiesto a Francesca Ferreres se a questo punto, dopo questo risultato, l'indipendenza catalana sia sempre più vicina. Con questo vi lascio e vi saluto da Barcellona. E secondo noi sì, ieri abbiamo dimostrato nuovamente che l'indipendentismo è maggioranza in Catalogna, con le loro regole, con i loro tempi e con i loro modi, abbiamo dimostrato nuovamente che l'indipendentismo è ancora vivo e soprattutto sicuramente è ancora più vicino all'indipendenza di quanto lo fosse prima. Così dunque la situazione della Catalogna. Questa notte, per restare all'estero, il voto alle Nazioni Unite su Gerusalemme capitale, sulla decisione degli Stati Uniti di spostare la capitale, l'ambasciata a Gerusalemme, riconoscendola sostanzialmente come capitale, un voto a schiacciante maggioranza contro gli stessi Stati Uniti, mentre la Santa Sede chiede oggi appunto di rispettare, come avete sentito nei titoli, il valore universale della città di Gerusalemme. L'analisi di Ugo Tramballi. Imitando il caro nemico nordcoreano, Donald Trump prima si isola dal mondo e poi lo minaccia. Spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non ha alcun impatto su un processo di pace, quello fra israeliani e palestinesi, che non esiste, ma lo ha sulla credibilità americana agli occhi di alleati e di nemici. Gli europei e gli arabi moderati sono allibiti, russi, cinesi, iraniani giuriscono per l'ennesimo errore diplomatico americano. Ma minacciare la grande maggioranza del mondo che all'ONU aveva votato contro, come ha fatto l'ambasciatrice americana Nikki Haley, è un modo di fare da satrapo, non da presidente degli Stati Uniti. Un comportamento ripetuto l'altro ieri all'ultima seduta di gabinetto alla Casa Bianca prima delle feste, quando ai segretari dei dicasteri più importanti, esteri, interni, difesa, giustizia ed economia, è stato chiesto di tessere l'elogio dei successi ottenuti da Trump nel suo primo anno di mandato. Come si fa davanti al leader massimo, nessuno si è permesso di dissentire. Intanto si sgretola quel sistema di alleanze e di fiducia che aveva reso grande l'America. Veniamo alla cronaca italiana. La procura di Mantova ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta nei confronti del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, o almeno di un pezzo di questa indagine. La storia del sindaco di Mantova che avrebbe molestato la vicepresidente di una onlus della città in cambio di favori è tutta da riscrivere. Il sindaco di Mantova, Palazzi, non ha chiesto favori sessuali alla vicepresidente dell'associazione culturale. La svolta che ha portato la procura a chiedere l'archiviazione nei confronti del primo cittadino di Mantova è arrivata ieri dopo l'interrogatorio della vicepresidente dell'associazione, Elisa Nizzoli, 39 anni. La donna durante l'interrogatorio ha ammesso di aver alterato i messaggi della chat erotica tra lei e il sindaco, che erano di carattere personale, aggiungendo parti di frasi riferite al ruolo istituzionale di sindaco e quindi di aver inviato quelle conversazioni a terze persone che erano ignare delle manomissioni. La donna adesso è indagata per il reato di false informazioni al PM, rese nel suo primo interrogatorio. Palazzi resta tuttavia indagato per abuso d'ufficio per i contributi erogati dal comune a varie associazioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca dalla manovra, dalla legge di stabilità. Dopo la fiducia di ieri sera, l'ultima legge di bilancio della legislatura incassa anche il via libera da parte della Camera con 270 voti a favore e 172 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, che dovrebbe approvarlo in via definitiva già domattina. Dei quasi 28 miliardi della manovra, poco meno di 11 serviranno per congelare il programmato aumento dell'IVA che viene rinviato al prossimo anno. 2,8 miliardi sono destinati invece all'aumento dello stipendio degli statali, che sarà in media di 80 euro al mese. Il bonus bebè è esteso anche al 2018, ma solo per il primo anno di età del bambino. Sul fronte pensioni è prevista l'esclusione di 15 categorie di lavori gravosi dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Per la scuola c'è la stabilizzazione di 18.000 docenti precari. Altra novità è la web tax al 3%, che sarà applicata alle transazioni digitali ma non al commercio elettronico. Per le imprese 4.0 sono previsti sgravi per gli investimenti in innovazione, ricerca e formazione. Quanto al lavoro, è prevista la decontribuzione triennale sulle assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Assa hanno trovato irregolarità nella cucina di uno dei locali di uno chef famosissimo, Cannavacciuolo. Controlli periodici di ASL e carabinieri del NAS nelle cucine dei principali ristoranti torinesi. Fin qui tutto normale, ma da incappare in una serie di irregolarità è stato il Cannavacciuolo Bistrò Torino, l'ultimo nato della rete dello chef. Nei controlli a Campione in realtà sono stati tre i locali a cui gli agenti hanno contestato violazioni amministrative. Per il ristorante di Cannavacciuolo, aperto soltanto da pochi mesi, il problema sarebbe stato quello di non aver indicato nei menu proposti quali fossero gli alimenti congelati. Nei congelatori del locale gli operatori hanno trovato pesce e altri alimenti normalmente sottoposti al processo di abbattimento. L'errore sarebbe stato quello di non aver indicato la cosa ai clienti, oltre alla mancanza di schede complete per tracciare tutti gli alimenti in cucina. Irregolarità costate una denuncia per frode a carico della moglie dello chef e del direttore del bistrò. Mancava solo un asterisco, così viene quasi voglia di andarsene, commenta lo chef, famoso anche per il format italiano Cucine da Incubo. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Oggi la relazione dell'antimafia sui rapporti tra criminalità organizzata e massoneria. Non sono la stessa cosa, ma in alcune regioni, come Sicilia e Calabria, tra massoneria e mafia c'è un consolidato abbraccio, favorito soprattutto dall'interesse per gli affiliati alle cosche di avere contatti privilegiati con imprenditori, politici e funzionari pubblici che spesso indossano il grembiule dei fratelli massoni. I nomi degli iscritti però restano avvolti da opacità e abuso di segretezza in virtù di una legge considerata incostituzionale dalla Commissione parlamentare antimafia. Dopo mesi di audizioni, sequestri di elenchi e polemiche, l'istituzione presieduta da Rosi Bindi termina il suo lavoro denunciando una sorta di arrendevolezza delle associazioni massoniche, si legge nella relazione, nei confronti della mafia. E i numeri sono preoccupanti. In queste due regioni sono 193 gli affiliati alle logge toccati in vario modo da indagini sulla mafia e all'ombra di quelle ufficiali si annidano ancora logge coperte con fratelli che hanno continuato a fare carriera nel mondo della politica e dell'impresa, col rischio poi che soprattutto in aree ad alta concentrazione di iscritti, come il regno del superboss Messina Denaro, queste diventino comitati d'affari. E come già molte inchieste hanno svelato, ancor più confusa è la situazione con l'andrangheta calabrese, e la commissione presieduta da Rosi Bindi termina il lavoro proponendo alla nuova legislatura una correzione della legge Spadolini. Non può essere reso noto che chi è stato condannato per 416 bis è anche iscritto ad una loggia massonica. È un abuso di segretezza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non è un cinepanettone, Natale col campionato, Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Natale col campionato con grande soddisfazione. Sì. Qualcuno dice non bisogna scoppiazzare. Anche con un partitone, tra l'altro. Anche con un partitone si gioca nelle vacanze, come per gli operatori dello spettacolo, quali sono i calciatori, quali sono le squadre di calcio, giusto che sia. Si comincia oggi con l'anticipo dell'anticipo, perché si giocheranno tutte le partite domani di sabato 23. Quindi oggi Chievo-Bologna alle 18, Cagliari-Fiorentina 20:45, non sono due partitissime, quelle le aspettiamo domani. Apre il programma alle 12:30 Lazio-Crotone, poi Genoa-Benevento, Napoli-Sampdoria, che è pure una partita estremamente interessante con la capolista che riceve una squadra che ha rotto le scatole a molti, Juventus compresa. L'Inter che va a Sassuolo dopo aver perso l'ultima gara in casa con l'Udinese. La Spal riceve il Torino, poi c'è Udinese-Verona. Alle 18 Milan-Atalanta, che ha un sacco di temi, con il Milan in crisi che si presenta a San Siro dopo i tre schiaffi presi a Verona. Ovviamente, nonostante la temperatura rigida, farà caldo a San Siro agonisticamente. E poi la partitona cui alludevi tu, 20:45 di domani, Juventus-Roma. E beh, lì si fa sul serio, anche se è l'antivigilia di Natale, Simone. Allora, grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati per parlare ovviamente di tutto questo e non solo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Tanto abbiamo parlato nei giorni scorsi, sentendo prevalentemente i sindaci dei comuni terremotati, di questa questione che ha a che fare con le casette, che sono i moduli abitativi provvisori che vengono realizzati in attesa ovviamente che vengano fatti i lavori e che le persone che hanno subito dei danni per il terremoto possono tornare nelle loro case. Ebbene, ospiteremo l'azienda che ha realizzato queste casette, che è stata un po' sotto accusa nelle ultime settimane, e ci faremo dare qualche chiarimento proprio da loro. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e la pagina Facebook di Radio 24 è quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'Ilva, è arrivato un nuovo appello di Gentiloni nel giorno nel quale c'è la riunione sul piano industriale della Catalogna, dove hanno vinto gli indipendentisti, ma la tensione ovviamente resta alta. Dell'archiviazione di un pezzo dell'indagine sul primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, come ricorderete, al centro di quella vicenda appunto era accusato di concussione, perché l'accusatrice del sindaco alterò a quanto pare i messaggi delle Nazioni Unite che hanno condannato la decisione americana su Gerusalemme, e poi del campionato, come avete sentito. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo anche oggi dalle zone colpite dal terremoto, con un'attenzione che si concentra in particolare e si è concentrata in particolare in questi giorni, in queste settimane, sulle Marche, sulle zone di montagna delle Marche. Abbiamo ospitato nei giorni scorsi alcuni sindaci, quello di Arquata del Tronto, tanto per fare un esempio, quello di Visso, che apparentemente è il più arrabbiato di tutti, sul tema delle casette, cioè dei questi moduli abitativi provvisori che, nei quali le persone vanno a stare in attesa, ovviamente, che le loro case vengano rimesse a posto, che partano i lavori e via dicendo. Tante sono state le denunce in questi mesi, si è detto che le casette stavano arrivando in ritardo, si è raccontato, e lo abbiamo raccontato anche noi tramite la voce dei sindaci, di qualche problema tecnico che si è verificato. Abbiamo in linea con noi Giorgio Gervasi, che è presidente del consorzio Arcale, che è il consorzio che si occupa della realizzazione e della consegna di queste case. Gervasi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno agli ascoltatori. Iniziamo dalle cose minute, se ci consente, e da quelle tecniche, che sono quelle tecniche. I sindaci ci hanno detto... alcuni tubi si sono gelati, le case sono pensate per la costa o quantomeno non sono pensate per aree di montagna, di alta collina e via dicendo. Che cosa rispondete voi? Che le case sono case costruite per stare sia in montagna che sulla costa, sia sull'Appennino che in pianura. Non c'è una casa che si costruisce in montagna, una casa che si costruisce sul mare. Le case hanno degli indici strutturali che devono essere rispettati, e la parte strutturale di questa casa può stare benissimo in montagna come al mare. Non c'è nessuna descrizione sulla tipologia della casa adatta al mare o alla montagna. Perché si parlava degli impianti, no? Tubi che si gelano perché non sono coibentati. Vogliamo sfatare un po' la storia, sì, di questo pannello solare? È la storia dei pannelli solari, allora, esatto. Queste case nascono progettate a un bando di gara del 2014, dove per rispettare le leggi che ci abbiamo in Italia, in particolare la legge 28 del 2011, dove qualsiasi nuova costruzione deve avere delle energie rinnovabili, e in particolare queste qui sono andate in deroga al fotovoltaico, sì, ormai è rimasto il solare termico, che deve soddisfare una misura del 50% dell'acqua sanitaria. Sì. Ok, allora, il solare termico chiaramente d'inverno in montagna non è performante, non funziona. Insomma, ma l'impianto ha un bypass. L'impianto ha un bypass, semplicemente si gira due valvole e funziona solo la caldaia, e quindi l'impianto solare termico nelle aree di montagna o di alta collina o sugli Appennini viene isolato e basta, chiuso lì. Cioè, c'è stata una polemica inutile. Il boiler, quel boiler lì è un accumulo del solare termico. Dentro c'è la sua caldaia nella casa, che fa l'acqua sanitaria, che fa il riscaldamento e dà una condizione ottimale per vivere le case anche in montagna, anche a Bolognola, a 1060 metri di altitudine. Gervasi, il fronte delle consegne delle casette, anche su questo ci sono state tante polemiche, no? Voi avete risposto dicendo, la regione ha sollevato la polemica molto duramente, voi avete risposto e avete detto: guardate che finché non fate l'urbanizzazione delle aree, ossia la dico brutalmente, non ci portate gli impianti là, e noi non è che possiamo farle, così. No, io la dico più brutalmente perché tutti possono capire. Finché non ci portate l'acqua, la luce e il gas, almeno così tutti capiscono, ok? E a che punto siamo adesso? Allora, noi rispondiamo per le nostre competenze. Io le posso dire che noi abbiamo iniziato questa attività metà febbraio del 2017, scusi. Nel primo semestre abbiamo consegnato 26 casette, perché le aree a disposizione ci permettevano di consegnare 26 casette. Da 3 luglio ad oggi abbiamo consegnato 1042 meno 26, che erano quelle del primo semestre. Da qui a fine anno pensiamo ad arrivare a 1250 casette consegnate. Quindi noi in un semestre, da 3 di luglio al 31/12/2017, abbiamo consegnato 1224 case. Il nostro contratto prevedeva una consegna semestrale di 780 case. La Protezione Civile a novembre del 2016 ci chiese se potevamo aumentare la produttività. Abbiamo colto l'occasione. Questi sono i risultati. E quante ne dovete consegnare? Con fine anno avete finito? Per quanto vi compete, per la parte che vi compete, perché non siete solamente voi. La parte che ci compete, noi abbiamo in carico 1317 platee, ne consegneremo 1250, il 95% delle platee che abbiamo in carico. Io la ringrazio, grazie a Giorgio Gervasi, presidente del consorzio Arcale, al quale abbiamo voluto dar voce, ha deciso ovviamente di rispondere anche alle critiche che sono arrivate in queste ore dal territorio e dai sindaci. Noi ci fermiamo, adesso andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi se riusciremo, è quello che vorremmo fare, ci collegheremo con Napoli, con la mamma del ragazzo che è stato accoltellato in centro a Napoli, per farci raccontare un po' che cosa sta succedendo, perché è anche in corso una bellissima manifestazione nel capoluogo partenopeo proprio in favore di questo ragazzo accoltellato brutalmente per strada. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Ilva, c'è l'appello di Gentiloni per lo stop al ricorso, si apre intanto il tavolo sul piano industriale al Ministero. L'accusatrice del sindaco alterò i messaggi, archiviata l'indagine per concussione sul primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi. In Catalogna vincono gli indipendentisti che si dicono pronti ad un nuovo governo, nuovi indagati per ribellione. L'ONU condanna la decisione americana su Gerusalemme e il Vaticano, rispettare il valore universale della città. Migliaia in marcia a Napoli per il ragazzo accoltellato in strada, la mamma del ragazzo, chissà, parli, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di andare al prossimo argomento, che sarà, visto che questa è l'ultima puntata dell'anno di questo 2017, l'ultima puntata di Effetto Giorno, poi ci risentiremo nel corso delle vacanze di Natale perché abbiamo approntato una nuova trasmissione più o meno alla stessa ora, ci saranno 7 puntate nelle quali cercheremo di introdurvi al 2018 e visto che è l'ultima puntata della stagione, dell'anno, non potevamo farci mancare il tema di Igor, so che abbiamo già il nostro Daniele Predieri in linea, pronto là, però prima una piccola nota su quello che sta succedendo a Napoli, l'audio. Perché, consentiteci di dirlo, quello che è successo a Napoli oggi è tanto bello quanto è stato brutto e doloroso quello che è successo qualche giorno fa quando Arturo, 17 anni, un ragazzo che frequenta il liceo cuoco, è stato accoltellato da 4 persone a quanto pare a volto coperto, che chissà che cosa volevano fare, forse emulare, secondo anche lo stesso sindaco, qualche serie televisiva, il sindaco di Napoli, De Magistris, prendere spazio all'interno di un territorio, ma quanto è stato brutto quello che è avvenuto, quanto è bello quello che è avvenuto oggi. Migliaia di persone in piazza, applausi dalle finestre proprio in solidarietà a questo ragazzo e per chiedere una rinascita da questo punto di vista, un cambiamento. E questo è l'audio di un pezzo di questa manifestazione, una manifestazione molto bella e partecipata. Avremmo dovuto avere in diretta la mamma del ragazzo che è stato accoltellato, però è ovviamente impegnata per la manifestazione, per altre cose, ha un figlio in ospedale a cui badare ed è perfettamente giusto che dia priorità a questo rispetto a Radio 24 e quindi all'ultimo minuto non ce l'ha potuta fare, ma va benissimo così, in bocca al lupo a lei, in bocca al lupo ad Arturo. Dunque passiamo al mitico Igor che, come ben sapete, è stato arrestato in Spagna. Ci sono almeno 5 omicidi almeno, perché non sappiamo quanti altri ne possa aver commessi. Come sappiamo, in Spagna è stato arrestato dopo aver raccontato di aver utilizzato 18 identità false. Sappiamo che tentava Igor il Russo, in realtà serbo, Norbert Fer, e quindi insomma così ci risparmiamo subito il problema degli ascoltatori che scrivono dicendo che ce l'abbiamo con Putin. Oggi apprendiamo addirittura che cercava di contattare Mammina, faceva delle telefonate mute alla sua famiglia in Serbia per poi forse farsi ricontattare per via telematica. Daniele Predieri della Nuova Ferrara, ciao, come stai Daniele? Ciao, buongiorno a tutti. Che poi mi eri in vacanza proprio nei giorni nei quali l'hanno arrestato. Che mannaggia. Sì, infatti, lo so. I casi della vita. I casi della vita. Allora, su questa vicenda poi ovviamente il ministro Minniti ha detto ringraziamo un'attività investigativa che non si è mai fermata. Il procuratore si è preso anche qualche merito. In realtà non è che le cose siano proprio andate così, Daniele? Sì, le indagini, a dire il vero, erano ovviamente a 360 gradi, come dicono sempre loro, gli inquirenti. E tu dicevi che lui stava contattando i familiari in Serbia, infatti c'era un'attività di indagine molto seria in Serbia, un'altra in Austria e soprattutto in Spagna, c'erano delle tracce molto concrete che lui fosse in Spagna, anche perché è il paese dove lui aveva lavorato già nel 2016, quindi conosceva bene proprio il territorio di Valencia e guarda caso è stato preso vicino a Valencia, tra Valencia e Malaga. E dicevi assolutamente che gli contestano, ovviamente è finita questa storia con altri tre omicidi, più i due italiani, tra virgolette, ci sono altri omicidi che sono ora all'attenzione degli inquirenti spagnoli che potrebbero, diciamo così, avere la firma di Igor Norbert. E in più ci sono tutti altri tentati omicidi, rapine violente, insomma è finita male, ecco, non doveva neanche cominciare, questo è il problema, perché sì. È inutile che lo ricordiamo, è stata sicuramente è stata sottovalutata la posizione di Igor Norbert da tanti e da troppi, e adesso la situazione è che lui è in Spagna, in un carcere di sicurezza, addirittura che condivide con terroristi spagnoli, quindi la levatura della pericolosità è altissima. Si farà il processo in Spagna per gli omicidi e tutte le indagini che stanno in corso e poi soltanto dopo avverrà l'estradizione in Italia per accertare quello che ha fatto qui. Quello che effettivamente nero. È avvenuto. Dicevi il buco nero? Il buco nero di questa indagine, ovviamente adesso è stato arrestato, qui è stato ascoltato, interrogato e ricordo ai vostri ascoltatori che lui ha risposto in italiano, tanto per essere molto chiari. Okay. No, lui è un poliglotta, conosce 7-8 lingue, ma in quel contesto lì in Spagna ha risposto al giudice in italiano. E adesso ovviamente questo è il buco nero che dovranno riempire gli inquirenti italiani, verificare chi ha dato supporto a Igor, chi gli ha permesso di perché questo è il tema, insomma noi abbiamo se volete anche un po' ragionato molto sulla difficoltà delle nostre forze dell'ordine a battere bene in maniera veramente profonda quel territorio per cercarlo e trovarlo, abbiamo parlato delle tracce che sono state reperite in giro, abbiamo anche raccontato di episodi particolari che già abbiamo riferito, come insomma, dei carabinieri che se lo vedono passare sotto ma non lo catturano perché chiedono in centrale, la centrale gli dice di aspettare rinforzi e poi a quel punto lui sparisce di nuovo. È vero dall'altra parte che in tutto questo ovviamente non può che essere stato aiutato? Assolutamente sì, questo è il vero problema di questa indagine, anche se questo sono in grado di dirlo con molta certezza. Tutti i contatti che lui ha avuto qui in Italia sono stati ovviamente scandagliati a fondo e di questi contatti non sarebbe emerso nulla. E infatti gli stessi inquirenti dopo l'arresto di Igor in Spagna, parlando con i giornalisti, parlavano proprio di nuovi scenari, in poche parole sono altre persone che lo avrebbero aiutato. Lo avrebbero aiutato ad andare via da quel famoso... zona rossa tra Bologna, tra Molinella e Consandolo, tra Ferrara e Bologna, ecco. Il problema però è che le difficoltà sono state tantissime sulla sua ricerca e lui ha detto di essere in Spagna dal settembre scorso. Le ultime tracce, questo ufficialmente lo dicevano dalla procura di Bologna, le ultime tracce concrete di Igor lì nella zona rossa risalgono a metà maggio. Quindi occorre verificare dove lui da maggio a settembre si è andato, con chi, che rapporti abbia avuto, e, ad esempio la traccia della Spagna, questa è una cosa importante dal punto di vista investigativo, era stata coltivata dagli inquirenti, questo lo sapevamo, molti giornalisti lo sapevano che stavano prima che venisse arrestato in Spagna. Sapevamo che c'era una pista concreta in Spagna. Perché? Perché in Spagna era andato, era, diciamo così, si era, sì, perso di vista quello, l'italiano che Ravennate, che era il suo compagno di cella qui nel carcere di Ferrara, sì, diciamo, tanti anni fa, e che si erano perse tracce sue in Spagna, quindi stavano seguendo il compagno di cella. E poi alla fine, però, occorre sottolinearlo in modo molto energico, è stato arrestato per caso, per caso, e sì, inutile ricordarlo, ci sono scappati tre morti. Allora, grazie a Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Caro Daniele, buon Natale a te, ovviamente, a tutta la tua famiglia e ai colleghi della Nuova Ferrara. Io ho un grande apprezzamento e li sfruttiamo tantissimo per i giornali locali, perché insomma ci raccontano il territorio in questo modo e sanno raccontarcelo anche con profondità. Dunque, grazie a Daniele Predieri per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Poi il grande Mario Platero, che insomma sta per concludere la sua avventura qua a Radio 24, e poi ci risentiamo alla fine per i saluti.